35esimo giorno della guerra a Gaza, 10 novembre 2023. Abbiamo perso contatti con Zainab. 30esimo giorno della guerra a Gaza, 11 novembre 2023. Zainab si fa viva con un SMS. Siamo ancora vivi, ma non abbiamo internet. Domanda: riesci a mandarci il tuo diario paragrafo per paragrafo via SMS? Zainab: se restiamo in vita, i bombardamenti sono molto intensi. In attesa delle notizie di Zainab, ecco un riepilogo della situazione. I quartieri di Gaza City sono sottoposti a violenti bombardamenti, concentrati nelle vicinanze del complesso ospedaliero Al-Shifa di Gaza City e vicino agli ospedali pediatrici di Al-Nasr e Al-Arantisi e al resto dei quartieri della città. In particolare, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto il complesso ospedaliero Al-Shifa. In parallelo, le forze aeree d'occupazione hanno preso di mira le case e i suoi residenti civili nel campo profugo di Al-Shati, a ovest di Gaza, nel quartiere di Al-Sabra, nel campo profughi di Nuseirat, come nel campo profughi Bureji e nel centro della striscia di Gaza a Beit Lahia. Il numero delle aggressioni brutali commesse dall'esercito d'occupazione sale a 1.130 attacchi e a 3.000 il numero delle persone scomparse, tra cui 1.500 bambini che sono ancora sotto le macerie. Il numero dei cittadini palestinesi assassinati ha raggiunto 11.078, inclusi 4.506 bambini, 3.027 donne, e il numero del personale medico assassinato ha raggiunto il numero di 198, inclusi medici, infermieri e paramedici. Sono stati martirizzati anche 20 uomini della protezione civile e 49 giornalisti. Il numero dei feriti ha raggiunto quota 27.490, la maggior parte dei quali sono bambini e donne. Il numero delle unità abitative demolite totalmente ha raggiunto 41.000 unità abitative e 222.000 unità abitative parzialmente demolite. Il numero di moschee completamente distrutte è aumentato a 67, 145 moschee parzialmente distrutte e 3 chiese.